Ogni sguardo, ogni tocco fa capire che il tuo tempo viaggia sincrono col mio. Le parole sono finite se per dire che vai via. Io non credo a un'altra scusa, io non credo a una bugia. Ma se un errore è già pagato, lasciare ancora, ancora ormai. Ma solo chi non ha provato può avere i rimpianti suoi. Tu che vuoi, tu che vuoi, con lo sguardo sai capir la fine. I guai dei miei guai non mi sai spiegare mai il motivo. E sei lunatica, ogni giorno nasce, cresce come vuoi. Tu che sia, come fosse l'ultimo momento. Sogni qui con me, ma non basta solo un treno, non ti porta qui con me. Con la mano tocco te, tocco la fotografia di quel giorno, di quel posto. La memoria mia non sa, ma se il cielo è poi lo stesso, perché arrabbiarsi come noi? Cambia solo il suo colore per cambiare gli occhi tuoi. Tu che vuoi, tu che vuoi, con lo sguardo sai capir la fine. I guai dei miei guai non ti sai spiegare mai il motivo. E sei lunatica che ogni giorno nasce, cresce come vuoi. Tu che sia, come fosse l'ultimo momento. Tu che vuoi, tu che vuoi, con lo sguardo sai capir la fine. Ogni giorno nasce.